Pronto? Antò? Chi è che chi parla? David Parenzo. Oh, ciao, ciao David, come ma stai? Ma mortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi? Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due vabbè, secondi. Facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, registrata, no, no, registrata. Mi sto per te. Guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come sto vestito? Prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma allora fatto i cazzi tu, ah no, va a far culo. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora Barbara, mi dicevi che dopo aver ascoltato David Parenzo alla Zanzara un paio di giorni fa affermare di non essere interessato alla terza azienda, come dice lui, ossia i trans, hai deciso di rilasciare questa intervista. Non pensavo si potesse arrivare a questo livello di ipocrisia, mi hai detto. Mi sono stufata, voglio raccontare tutto. Sono parole che mi hanno profondamente ferito, è veramente un bastardo. Qual è il tuo vero nome, quello all'anagrafe, intendo, se posso chiedertelo? Marco Paolo, ma non lo posso sopportare. Ormai io da molti anni per tutti sono Barbara. Quando hai conosciuto David Parenzo? Un paio di estati fa sull'isola di Berina, alla presentazione del libro di un amico in comune. Ecco, da quello che mi hai detto non è stata l'unica volta che vi siete visti? Assolutamente no. Da quella sera hai iniziato a telefonarmi a tutte le ore. Poi qualche giorno dopo ci siamo visti a pranzo in un noto ristorante di lusso. Lì ho iniziato a conoscerlo meglio. In che senso? Nel senso che al momento del conto si è alzato per andare in bagno e non è più tornato. Ma chi? Ho dovuto pagare io. Ah. Poi mi ha mandato un messaggino con 1 milione di scuse, cose così. E quando ci siamo visti la prima volta nel mio appartamento sulla Cassia, mi ha portato un mazzo di fiori di maledetto. Quando dici nel tuo appartamento, immagino, insomma, non venisse certo a giocare a nascondino. Ma io querelo tutto. Per questo che mi sono incazzata. Quando l'altra sera diceva di non essere interessato a certe cose, me lo immaginavo nudo con le chiappe al vento mentre mi diceva ti prego, fammi subire, fammi male. Maledetto. Ha un'indole passiva, quindi. Totalmente passiva, passiva, passiva. Quante volte vi siete visti? Una marea di volte. Essendo il tuo lavoro, immagino, a pagamento. Sì, ma anche su questo è un dito al culo, come si dice a Roma. Sempre a chiedere sconti, 3x2, oppure mi dici di frustarlo gratis. Quindi ci stai dicendo che ha anche delle tendenze sadomaso? Certo. Sì, vuole essere schiavizzato, legato al letto, supino con le manette o con la corda. Beh, questo è ovvio. Poi ama essere preso a frustate sul sedere mentre gli dico che è stato cattivo. Esatto, esatto, esatto. Ogni tanto nei suoi deliri mi chiamo Urbano e mi chiede di urlare che non è un bravo giornalista. Bravo, anche questo è giusto. Vi vedete solo per questo? Ma ogni tanto facciamo anche una passeggiata, ma mi sfida al telefono ogni 2 secondi. La maggior parte delle volte è qualche baldracco o qualche altro trans. Ma no, poi ogni tanto di punto in bianco assume un tono dimesso da schiavo, dice solo cose del tipo sì certo, come vuole lei, sarà fatto, farà tutto quello che dice lei. Vabbè, adesso bisogna vedere in che contesto. Mostrando la sua vera anima da scendiletto stropicciato. E penso che possa bastare, grazie Barbara. Grazie a te, amore. Ragazzi, abbiamo ricevuto. Riceviamo, come si diceva una volta. Sì, riceviamo e pubblichiamo. Sì. Avete messo insieme la mia voce con quello quella dopo, di questo pseudo quello travestito. No, non so chi cazzo sia. Io faccio bloccare la trasmissione. Io faccio sequestrare le antenne di Radio 24 e ti metto sull'astrico. Ragazzi, io ti porto via tutto. Da oggi la tua passività, la tua frequentazione un fake di certi trans non è più semplicemente leggenda, c'è una testimonianza, me l'hanno mandata nera ma su bianco. Testimonianza? Avete montato caso, tutto ad arte. No, ma che montato? Ma vergognate. Avete visto quanto è facile convenzionare una fake news? Ma questa è l'ultima che fai. Io ti porto via tutto. Fake news. Io ti chiudo l'azienda, io chiudo la radio. Ma quale fake news? Ti faccio chiudere la radio. Ma che male c'è? Ma che male c'è farsi inculare da un trans? Spiegami. Ma perché, scusami, io avrò tante cose, ma non è il mio. Oh, madonna, come te lo devo dire? Ma che male c'è, ragazzi? Che male c'è? Fai coming out. Mi sono fatto inchiappettare da Rosaria, come si chiama? Ascolta, mi sono fatto fare il sedere, il sederino. Me lo sono fatto perché mi piace, ogni tanto mi piace così. Non riesco a capire. Io avete montato un fake pazzesco. Io ho tante cose, tante passioni, ma sono un amante della vecchia azienda. Quelle porcherie, perché io le chiamo porcherie. Ah, perché farsi un uomo che si fa inchiappettare da un transessuale è un maiale, è un porco. Sicuramente è un svalvolato, dai, cazzo. Ma non ho capito, un uomo che va da un transessuale a farsi inchiappettare, secondo te è un malato, è uno svalvolato. Uno svalvolato, sicuramente. Ma no, di più, hai detto un malato, un perverso. No, malato, uno che dovrebbe farsi curare. Una perversione, cioè, secondo te uno che gli piace così, se uno che ha una famiglia. Diceva Taormina, pensate Taormina che diceva sì, e se ti piace così, poi diceva e se ti piace così, c'è la ragione così. E se ti piace così, una roba incredibile. Comunque, ragazzi, l'uomo del giorno è certamente il governatore del mondo. Ma che è un fake che avete costruito, ma che mi è arrivato, io non ho costruito niente, mi è arrivato questo file, una testimonianza di un transessuale. Poi, maledetti, diglielo, Roccabella, diglielo, ma porto via tutto, ma che la gente ci crede, questa è la testimonianza di un transessuale che ha detto che l'hai frequentato e ti sei fatto inchiappettare, ma qual è il problema? Ma il problema è che sono balle costruite da te a tavolino, dall'azienda. L'azienda non sarà responsabile, evidentemente, ma ormai avete superato il limite. Faccio chiudere la trasmissione. Io non ho capito una cosa. Se c'è un file di una testimonianza di un transessuale che dice di averti ripassato il culo, non deve essere lunedì, vero. Lunedì ci penso io a confezionare una cosettina su di te. Lunedì questa trasmissione diventerà un ricatto su ricatto. Diventerà l'unica trasmissione in cui i conduttori tirano fuori finti dossier e si distruggono a vicenda. Io voglio vedere la tua vergogna. Ti vergognerai ad uscire di casa per quello che farò pubblicare io lunedì. Allora, intanto il canale non rompere il cazzo, ecco, vada a fanculo, brutto trofo. Ma dico più allora, mio amico giustamente mi scrive un'unica frase, l'ho sempre saputo. Ragazzi, oggi c'è anche la testimonianza un manager. Oggi c'è anche la testimonianza nero su bianco, un file, un file audio. Fallo sequestrare se non è vero. Fallo sequestrare se non è vero. Faccio e perché getti merda su chi si fa inculare dai transessuali? È brava gente. Non niente, ma è brava gente. Dici che sono malati. Hai detto che sono malati. Sì, sì, per me sì. Per me uno che va con un trans lo è, fine, chiusa la trasmissione. Cosa no, ragazzi, questo si apre un grande dibattito. Chi va con un transessuale non è una persona svalvolato, è uno svalvolato. Ma perché? Perché è uno di gente normale che va. Così, allora, l'Apo Eccar è uno svalvolato? L'Apo Eccar che si faceva inchiavardare. Posso dirti, gli piace così, evviva. Evviva. It's not persona normalissima, job. Rispettabilissima. It's not my job. È un amico carissimo. E allora però andava transessuali. Vabbè, in quel caso lì hanno svalvolato. Che vuoi che ti dica? L'ho detto lui stesso. Comunque, ma ragazzi, di fronte alla tragedia della Campania che diventa zona rossa, De Luca se la prende con l'universo mondo. Toscana, è veramente la Toscana, sì. Se la prende con l'universo mondo, soprattutto se la prende con un signore che ha fotografato, poi vedremo, sentiremo. Quindi dov'è il complotto di cui parlavi? All'inizio della settimana che c'è quello all'inizio. I governatori all'inizio ho detto forse. Ho detto la butto lì. Tu semini puttanate. La butto lì. Semini zizzania. Non fai De informazione. De Luca, sciacallaggio verso la Campania. Però amico mio, adesso non è che è sciacallaggio verso la Campania. Abbiamo visto tutte le scene al Cardarelli e ripeto ancora una volta, mi hanno scritto in molti dicendo vergogna. Io al Cardarelli, se mi trovo davanti e mi succede qualcosa a costo di pagare 50.000 euro l'eliotrasporto, come cazzo si chiama, no? Un bel elicottero, un bel elicottero per il soccorso. Trasporto via, mi faccio trascinare da un'altra parte, non ci vado. Sarò padrone di dire una cosa del genere, che non ci voglio andare al Cardarelli? Sarò padrone o no? L'unica cosa che non sono mancati in questi 7 giorni sono gli attacchi, gli atti di sciacallaggio nei confronti della Campania di Napoli. Le strumentalizzazioni in qualche caso veramente indegne. Vi devo dire, ma credo che voi lo abbiate notato, Da due mesi non c'è una trasmissione televisiva, un giornale, che non dedichi 10 minuti al giorno alla Campania o a De Luca. Ma è normale, o però. A Napoli. Non c'è un giorno. Vabbè, ma per forza. Senza che ci sia un attacco mediatico. 9 volte su 10 del tutto strumentale. Poi attacca il governo, dice il colore delle regioni è una grande idiozia. Lunedì scorso sono stati pubblicati i dati delle regioni che collocavano la Campania in zona gialla. Ora vi devo dire francamente, a me questa cosa delle zone gialle, rosse, arancio, non fare caldo né freddo mi sembra una grande idiozia. C'è mezza Italia per la quale Napoli, la Campania dovevano diventare zone rosse a prescindere, sono impazziti. Per una scelta che ha fatto il governo, non noi, la regione non c'entra assolutamente niente. Hanno deciso loro di darsi il criterio numerico, una idiozia che serviva semplicemente per far nascondere il governo dietro i numeri, per non assumersi la responsabilità di chiudere tutto come era giusto fare a ottobre, non oggi. Oggi lo possiamo fare. Per quello dice, lui attacca il governo per non aver chiuso prima. Dice, bisognava chiudere prima. Questi si sono nascosti dietro questi numeri. Lo sto rivalutando De Luca in questa cosa qua, non perché ha attaccato. Beh, il tizio. Ma lui ha sempre detto la cosa. Lui però... ha sempre detto che l'Italia sarebbe dovuta, no, sarebbe dovuta fare zona rossa. Ho capito, però subito. Non è che attacca, cioè... E tu invece dicevi il contrario. No, e tu ma lascia perdere quello che dico io non conta. De Luca, oh, De Luca, meno male. Quello no, che De dici Luca, tu non conta. No, agli non atti, conta agli atti della procura. No, ma agli per atti. Me è diversa la cosa. Agli forse atti. Non hai capito bene agli la atti. Cosa. Per me agli bisogna, atti. Come ha detto ieri Bassetti in questa sede, i lockdown non bisogna farli. Ma non ha detto esattamente così. Sì, ha detto che non bisogna farli. Ha detto così. Ha detto usciremo distrutti, congelati da questi lockdown, bisogna imparare a convivere con il virus. No, questo convivere non vuol dire però non prendere convivere, le misure giuste. Convivere. Per me è sbagliato comunque chiudere, perché i soldi non ci sono da dare alle persone che sono incazzate come delle bisce, dai. Poi sentiamo che dice sulle code in macchina fuori dagli ospedali. Poi abbiamo avuto le macchine ferme davanti ai pronto soccorsi. Ci sono in tutta Italia, ma le immagini riguardano la Campania. E dunque se ci sono 5 macchine ferme, con un lavoro encomiabile, i nostri medici infermieri vanno a fare i tamponi, perché quando arriva personalmente, non con il 118, perché capita in Campania che soprattutto su 2 ospedali, Cardarelli e Cotugno, arrivano a decine autonomamente, prendono la macchina, arrivano lì a pronto soccorso. Che cosa bisogna fare? Non è che puoi far entrare immediatamente nei reparti, è chiaro che devi perdere delle ore per fare il controllo del tampone e verificare che non ci siano positivi. Stanno in macchina, non possono entrare. Allora? Stanno in macchina. Africo in Reggio Calabria. Vogliamo fare ulteriori considerazioni? La Zanzara. Wait for me, world, wait for me. Wait for me, world, wait for me. Wait Zanzarosi, for me. Visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Oh, sono uscito a pagare la bolletta. Gli unici in giro sono i vecchi di merda. I vecchi di merda. Sono i vecchi. E dopo rompono i coglioni. In paese c'è aperto solo un bar che fa da sporto. C'era pieno di vecchi fuori. Sono i vecchi. I'm only human, so let me be. Let me be. Comunque mi è arrivato un messaggio, abbiamo nome e cognome, il transessuale in questione vuole fare coming out, ragazzi. Cioè, no, ma ragazzi, è tutto vero. No, tu pensi che sia un file costruito? Certo. Tu pensi che sia un file costruito? Ma sì, hai chiamato uno dei tuoi amici trans e hai costruito tutta questa. Stai scherzando? No, ci è arrivata questa testimonianza, guarda, un minuto e mezzo, in cui si raccontano di due prodezze con transessuali. Uno dovrebbe essere orgoglioso, fare coming out. Sì, è vero, ogni tanto mi sollazzo con dei transessuali. Ma qual è il problema? Una cosa che non farei mai, non ho mai fatto. Chi mi conosce sa che mi fa orrore. Fine, che gli devo dire? Rincara la dose. Posso dire personalmente che mi fa orrore l'idea. Comunque Sgarbi ce l'ha con te, dice: senti, Parenzo dice di portare la mascherina e poi fuma Spinelli. Senti, ma quando fumo? Sono mesi che non fumo, anni che non fumo. È una diffamazione continua. Anche lui. C'è una tale estremizzazione della forza del male che si pensa che la mascherina, che tu hai giustamente difeso, che è sicuramente utile in molte situazioni, è talmente importante che tu la idolatrizzi e contemporaneamente dici che prendi Spinelli. È il caso di questa sera del dottor Parenzo, che ha detto: io prendo Spinelli, fumo Spinelli, mascherina. Dico, ma è possibile che uno debba dare un esempio così negativo idolatrando una sola cosa? Ma torniamo a De Luca, ragazzi. Bisogna fare un attimo chiarezza, che qui vengono attaccato con balle clamorose. Ho detto che in gioventù ho fumato qualche Spinello. Ma sono dieci anni che non fumo una canna. Ma non ci sarebbe. Perché sarebbe da carabinieri. Una volta avevi le piantine. Ma quando non so neanche coltivare un fiore. Una volta avevi le piantine di marijuana. Questa è la realtà dei fatti. Ma cosa ti sei messo in testa? Ma mi vuoi distruggere? Ma non c'è niente di male. Ma io ti costruisco per lunedì uno di quei dossier che ti inchiodo al muro, di tutte le tue festine fatte con 8-9 persone al Festival del Giornalismo di Perugia. Ma io ho le foto, sarò circostanziato, farò nomi e cognomi di persone, ma io farò di tutto, ti distruggo. Vuoi trasformare questa trasmissione? Vuoi che finisce che ci facciamo arrestare a vicenda per l'informazione? Questa trasmissione finirà non perché non ci sia il pubblico, ma perché ci faremo arrestare noi per diffamazione a vicenda. Brutto, infame, maledetto. Se una critica va fatta al pronto soccorso del Cardarelli è di troppa generosità. Bisogna accogliere quelli che hanno problemi seri, non chi ha una linea di febbre. Cioè, il Cardarelli è troppo generoso. La gente muore nei cessi. Cardarelli troppo generoso. La cosa incredibile è che De Luca se la piglia con quello che ha fatto le immagini, che ha girato le immagini lì. Sì, ci potrebbe essere una violazione della privacy, per carità. Non stiamo qui a discutere, però. L'immagine di quello morto, non so se sia malato di Covid, aveva 3, 4, 7 patologie quello che era là dentro. Pace all'anima sua. I cosi sono incazzati, i parenti sono incazzati come bestie, perché lui è stato trattato come una bestia. Ma De Luca se la piglia con chi ha fatto il video. Chi ha fatto il video ha raccontato quello che succede, ha raccontato la tragedia del Cardarelli, la tragedia della Campania. Dopo il decesso di quel nostro concittadino scopriamo che c'è questo signore di 30 anni che ha avuto lo stomaco animalesco, che con una persona deceduta a terra, mentre gli infermieri andavano a prendere una lettiga, si è messo a girare un video. Certo. Guardate, ma ci vuole uno stomaco, una forza non comune. Provate a immaginare voi una persona per terra. Uno rimane sconvolto. Questo girava un video, tranquillo. Ha trovato il tempo per metterlo sui social. Questo episodio è diventata l'occasione per un'altra campagna di sciacallaggio. Ho trovato i titoli di giornali. Negli ospedali della Campania si muore nei bagni. Una vergogna senza fine. Non ci sono parole per quello che hanno scatenato contro di noi. Ragazzi, la congiura contro la Campania. Se voleva, adesso mi sono ricordato di una cosa. Se voleva, me l'hanno suggerito gli ascoltatori. Da solo, lui poteva chiudere tutto. Da solo poteva chiudere tutto. Mi scrivono da Cucì Terme. Mi dicono: se serve, abbiamo i video delle performance di Cruciani a Cucì Terme Milano. Abbiamo tutto catalogato a disposizione della maggioranza silenziosa. Mi scrivono dal Cucì Terme Milano. Dovuto sanificare per colpa tua. Ed è, capito? Sono tu, guarda qui, mi hanno appena scritto: allora, se serve abbiamo i video delle performance di Cruciani. una cosa, guarda, incredibile. No, ma se chi se ne frega, posso raccontare tutto, posso raccontare tutto. Marco, provincia di Milano. Marco, provincia di Milano. C'era quella cosa con quei russi, peraltro. Intanto Sgarbi mi dice: non si pubblicizza l'uso della droga con riferimento a Parenzo. Vai, vai. Ma cosa c'ha Sgarbi? Come, che cazzo gliene frega? Pronto? Adesso dopo te lo chiamo, Marco, dimmi. Sì, Cruciani, ti volevo dire. Ascoltami, ma quando è che De Luca finisce di dire fesserie? Su che cosa, scusa? Su cosa? Perché diceva che Salvini aveva gli occhiali colore del suo sedere e dopo va a dire che stanno facendo lo sciacallaggio alla campagna. Vabbè, è tutta politica, ragazzi. Cioè, la politica è fatta così. Nessuno si è voluto assumere la responsabilità in Campania. Per me non bisognava chiudere un cazzo. La Campania, De Luca dice che il governo ha fatto troppo tardi, ma lui stesso poteva fare qualcosa. I governatori potevano andare oltre a quello che ha deciso il governo. Se voleva, chiudeva la Campania lui da solo a ottobre. La chiudeva da solo a ottobre, senza bisogno del governo. È inutile chiacchierare, dai, forza. Però sono d'accordo che questo qui continua a dire stanno sciacallando la allora, campagna. Un mio amico che fa parte dell'Arma dei Carabinieri mi dice: avendo ascoltato le tue affermazioni sono obbligato a segnalare alla prefettura di Roma Parenzo quale assuntore di sostanze stupefacenti per la sospensione della patente. Mi corre un carabiniere. Ma non l'ho mai, ma sono 10 anni che non mi sono fumato neanche una canna. Ma è un complotto contro di me questo ormai. La Zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Sto per dire una cosa forte, i giovani, quelli che hanno adesso 20 anni, tra i 20 e i 30 anni, sono quelli che dovrebbero andare in giro, sbattersi nel cazzo di tutto quello che gli viene detto e continuare a tossire in faccia a tutti questi vecchi di merda. Perché? Perché è molto semplice. Il motivo per cui questi ragazzi non avranno una scuola, non hanno una sanità, non hanno le istruzioni, non hanno una serie di servizi, è perché le persone che hanno 80 anni, che stanno adesso dai 50 agli 80, si sono arricchite, non hanno pagato tasse, hanno continuato a fare del nero. Quindi la rivalsa sociale è giusto così. I giovani di oggi devono andare in giro e tossire in faccia a tutti questi vecchi di merda. Mi hai inguaiato il futuro, mi hai indebitato, ora muori e vai a fanculo. E questo lo dico da 37enne e lavoro in un ospedale. Okay. La ricetta per il successo, la ricetta per il futuro, la ricetta per il debito viene dispensata continuamente da cinquantenni, sessantenni, settantenni che dalla loro posizione di privilegio puntano il dito e dicono che i giovani non rispettano le regole, non rispettano questi, ma perché loro le regole le hanno rispettate. Sono 50 anni che c'è un paese indebitato, hanno pensioni da 4.500 euro e sono andati in pensione a 42 anni, ad esempio nella sola città di Genova, quindi ad oggi questi devono criccare tutti. Allora ragazzi, io non so perché quando vedo in televisione Ricciardi, che t'ha fatto consulente Ricciardi del governo. Cosa ha fatto Ricciardi? Non scommetterei un euro sul lockdown dopo Natale. Ma perché? Ma adesso prima o poi si abitueranno tutti, basta, a dire questa cosa. Basta. E tu a Natale dirai sì, ci avevano ragione. Basta. Cioè adesso devi fare quello che attacca. Poi ma dopo, no, quando arriva, no, ma anche sulla peggio pandemia, sulla seconda ondata, dicevi che non c'era. Ma non ho che mai non detto, ci sarebbe non stata. Ho mai detto, non l'ho dicevi mai detto. Dicevi che non ci sarebbe stata, che eravamo dei menagrammi, uccello del malaugurio. Natale con Skype, a parte sti cazzi di Natale, per la prima volta forse ci libereremo da alcune cose, alcune feste, eccetera. Però Galli che dice Natale con Skype? Ma perché Natale con Skype? Perché non ci possono essere assembramenti a casa, ma nonni, cazzo nipoti, detto, eccetera. Manca più di un mese. Ancora con sta storia. Chi cazzo te l'ha ancora detto? Ancora non l'hai capito, ancora non l'hai capito. Ma lo capirai quando arriveremo lì, dirai: ah, è vero. A Natale come mi organizzo? Ma guardi, con Skype. Ah, con Skype, con tutti? Ma guardi, io le devo dire francamente che Natale è un altro pezzo di cuore che se ne va pensando di doverlo fare in tono minore, ma non abbiamo alternative. Poi se la piglia col Ferragosto sciagurato. ma cioè, già a causa del Ferragosto, ma non è così. Ma già lo sa, no, che cos'è il divino Telma? Ma il divino ancora, Telma? Ma ancora non hai capito, dai, la curva, i calcoli e come ma si ferma? Ma quale curva? Calma, calma, non calma. Non hai ancora calma, capito, dici le stesse calma cose che dicevi quest'estate. Guarda che punto voi siamo, siete le felici, stesse cose. Siete felici? Ma non sono felice di nulla, sei ma sono realista. Di essere rinchiuso, a differenza tua, sono realista e non racconto essendo balle alla gente. Comunista di fondo, sei, sì, sei felice della restrizione delle persone. Socialista liberale sono io, socialista liberale. Fratelli Rosselli, siamo ricaduti pesantemente in questa storia e lo siamo perché abbiamo fatto un Ferragosto, cioè, sciagurato. Ma cioè, quale Ferragosto sciagurato? Meno male che continuate a dire corretto. Ma meno male che c'è stato un po' di libertà per qualche mese. Meno male, meno male, meno male. Ma dai, su. Sì, una libertà, dai, dove c'era un signore, Salvini, che tu adori, che andava in giro senza mascherina. Ma io non adoro ad nessuno, esempio, guarda, figurati. Ad esempio. E tu non dicevi sempre nulla. Ma zitto, figurati. Io. Zitto, a dire nulla. Manco avevo la radio, ragione, io, figurati. Ora non possiamo fare un Natale o un Capodanno sciagurato dopo aver magari riarginato, ritamponato il problema, perché altrimenti ci saremmo da capo un'altra volta. Vogliamo essere dentro ancora per Pasqua? Forse bravo, no. Sì. Ma allora qual è la soluzione? Cioè la fisarmonica? No, dentro fuori, fisarmonica, dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori. La fisarmonica, dentro fuori, dentro fuori, il vaccino, dentro fuori. Ma il vaccino non si sa un cazzo, lo stai, stai sentendo. Stai sentendo i commenti sui vaccini che non e si sa bene se funzioneranno in modo e per quanto funzioneranno. Questo è le cure che diventano ma sempre più profilate, va, il vaccino ammazzo, e il guarda distanziamento. Prego, accomodati, fallo allora. Cenone con collegamenti e gruppi ristretti. Questo vuole fare i cenoni con lo Skype e gruppi ristretti. Ma ragazzi, non se ne può più. Ma mi sembra abbastanza ovvio se continua così la situazione. È naturale. Il cenone dovremmo farlo facendo dei bei collegamenti e stando in gruppi ristretti, perché altrimenti siamo da capo a creare problemi, voglio dire. Non parliamo dei veglioni di Capodanno. Già abolito i veglioni di Capodanno, già. Ma abolito già forza, le feste ovvio, di Capodanno. Assembramenti, abolite feste, le feste di Capodanno. Ma per forza, ma non perché è cattivo, perché è realista. A differenza Mirko di te, da Roma, Salvini, Mirko che raccontate Roma balle. Mirko da Roma, dai, Mirko. Pronto? Da Roma. Il convegno dimmi, senza mascherina, ancora ce lo dimmi, ricordiamo tutti dimmi alla camera. Dimmi. Ancora, David, applaudito da te. David. Applaudito da te, ancora David, ce lo ricordiamo. Quello di prima, del transessuale. Guarda che è uno scherzo. E io ti voglio dire, da persona che si reputa anche della minoranza, no, guarda che non è uno scherzo, è fare è uno scherzo, ma bene, so, fatemi dire, ma fatemi quale dire scherzo? Ma questo però, David, non ti autorizza a usare espressioni becere e maciste innegando alla ho detto solo che mi fa effetto. Hai fatto prima, perché ti devi vergognare. Ma mi fa effetto. Ho detto solo che mi fa effetto, che è un altro gusto. Di persone giusto che lottano per la loro identità sessuale. Ma qui è un altro discorso. Vai, no, ma aspetta, distinguiamo. Che si fa passare distinguiamo. Che sono un conto troie, è i diritti di tutti. Un conto ma è dire se mi piace a me. Ti devi no, no, forse non ci siamo scusare capiti. Fermi tutti, Mirko. Metti forse bene, non ci siamo capiti. Metti bene forse telefono, non ci siamo stai capiti. Stai zitto un attimo tu. Un metti, no, no, metti fammi bene te. Adesso un te lo faccio spiegare. Un Mirko, conto è, Mirko un metti conto bene il telefono. È, sei dire zitto un attimo, Mirko. Metti basta bene il telefono. Ma stai zitto che parlo piano. Allora, Mirko, sei un transessuale? No. Hai la voce un po' così da trans. Io non sono assolutamente un transessuale. Sono una persona eterosessuale che non ha mai avuto rapporti sessuali con i transessuali, appunto, ma appunto ho amicizie. Io dico semplicemente no, un altro che mi sembrava non si possa permettere. Perché dire che di calpestare la dignità. Ma no, veramente di ha parlato che lottano per la loro no, identità sessuale. Di chi va? Da lui di chi va? Non se lo si può, non ho lo si può. Ho detto di chi va? La minoranza lei però sarà anche eterosessuale, ma non capisce scusati, un cazzo, ha una comprensione scusarti pari allo zero. No, Mirko, no, lei forse non capisce l'italiano. Perché questo spiega che tutto. Chi va con i transessuali lei è uno sbalvolato. Chi va? Chi va? Chi non va? Sei di certo sinistra. Chi va? Certo. Ma no, scusi però, scusi. Sei un reazionario. Un conto sei è un combattere fascista per i diritti di tutti a prescindere dal sesso e dai gusti. Un conto vergognati è dire se io ci andrei. Io non ci andrei figa in alcun modo. Ti inneggi la figa come il Brasile. Ma adesso questo, insomma, questo non adesso mi pare un vergogna. Non sei di sinistra. Lei lo sta dicendo come si dice. Lei inneggia fascista l'andrangheta. Ma no, sì, voglio dire, inneggio a quel che pratico. No, però scusami Mirko. Mirko, adesso a parte che la tua sulla tua eterosessualità, uno secondo me ci potrebbero essere vai dei dubbi. Secondo me lo pigli, lo pigli, guarda, lo, guarda, lo pigli dietro io, tranquillamente. Guarda, ma comunque lasciamo Giuliani perdere. Ma uno quello può essere dire di essere eterosessuale, ma non dire Oh no, perché a me piace la fida. No, ma hai detto, io pratico un'altra azienda, ma quale macismo? Ho detto che io sono un frequentatore dell'altra azienda. Con le persone transessuali. Ma che stilano, no, manifestano, sono... però no, guardi che forse non ha... lei forse ancora una... Ti capisco, anch'io sono un progressista, anch'io sono un libertario, e tu da ex radicale, con le tue battaglie radicali di cioè, sto radicale, no, ma scusi, però... Però lui ha detto... Una ma scusi, lei ha proprio un problema di comprensione dell'italiano. Però, amico... Lei ha proprio un problema di comprensione... Io non so dove lei metta il pisello, ma sicuramente ce l'ha in testa, perché non capisce quello che uno dice, amico mio. Parenzo, hai detto che chi va con i transessuali è uno svalvolato. Chi va, secondo me, è un mezzo svalvolato. No, ha detto che è malato. Ti devi vergognare! Non è vero! Chi devi va? Accettare la eccone libertà un altro. Eccone un altro. Giusto, ha ragione. Ha ragione Mirko, ha ragione Mirko. Ma se lei vuole andare, che viva, avrò il diritto di dire. Non sono tutte puttane. Che serata, che serata, ragazzi. Che serataccia. Come è partita la serata così? Io non so. Sono anche persone che hanno diritto di vivere la loro vita. Ma ci mancherebbe altro. Ma per salvarsi da uno scherzo del cazzo. I diritti sessuali, i diritti. Ma com'è che è partita i diritti, una... Questo è il classico esempio di come funziona le fake news. Poi uno prende un pezzo di discussione e la porta da un'altra parte. Ma è un esempio di scuola. Questo è un esempio di scuola. Mirko, lei è un coglione. Se lo lasci ma dire guarda, dal cuore, liquidami come coglione. Tanto cuore, che chi ha ascoltato ha capito. Allora, Mirko, però, rimettiamo le cose a posto. La questione è molto semplice. David Parenzo ha detto, secondo me, sbagliato. Che chi frequenta transessuali è uno svalvolato e aggiunto sì, anche un malato. Un mezzo svalvolato. Un malato hai detto. Un mezzo svalvolato. Un malato hai detto. Chiaramente. Dai, un malato. Ha detto questo, ha detto malato, certo. E certo, ha detto un pazzo, ma cosa cazzo dici? Vabbè, ma che non c'è bisogno di vedere, non ha detto, non ha accusato. Ma non ha detto che i transessuali sono dei figli di puttana. Ma cioè, non ha detto che ti va con. Guarda che, ma tu sai, il problema, io ho delle amiche transessuali, sì. Poi non ho avuto rapporti sessuali perché io sono eterosessuale. Ma non per questo faccio il coglione come Parenzo a dire viva la figa. Ok? Il problema per una persona eterosessuale spesso è essere amato. Perché tanta gente vuole andare con i transessuali perché vengono dipinti come fai te, Cruciani, che però sei un cretinetto, si sa che fai il gioco. Senti come delle puttane. Non tutti i transessuali sono puttane. Ma chi ha detto niente? Beh, io conosco un sacco e di transessuali, pochi. Non si può permettere di dire che chi decide di stare con una persona eterosessuale sia un malato. Perché sta dicendo una cosa che potrebbe dire ad Inolfi. No, ma scusami, Mirko. Nel gioco delle parti, Parenzo, no, tu non lo puoi dire. Mirko, allora, se lui pensa che chi va transessuale, chi lo piglia nel culo da un transessuale, sia una persona malata e disturbata, no, sarà... uno svalvolato. Allora, no, dire, sono lo puoi dire, Parenzo, però allora non mi vengono per i coglioni. Non siamo un po'... Ma chi va, ma io considero dei miserabili anche quelli che vanno a prostitute per quello. No, quindi però, sai, ma scusami. Tu non stai facendo un discorso di prostituzione. Tu scusami, David, ma sono discorsi diversi. Io ho detto... ma quelle persone lì hanno tutte io ma con calpesto niente no, perché per me devono avere il diritto di scrivere passare. Anche nella carta d'identità il loro vero il nome che vogliono sia Maurizio sì, Maurizia non tu lo sempre sostenuto queste cose che tu dici dopodiché se uno mi dice ma non dirle nei transessuali dopodiché che sono se uno mi dice tu lo faresti ma sia tu agli lo faresti sia assolutamente agli atti, no. Sia agli atti, perché nel corso di questo processo radiofonico di questa sera il signor David Parenzo ha detto chiaramente che chi va con un transessuale è uno svalvolato no, un malato. Svalvolato, ma no, Raul da Roma, abbiamo capito Mirko, ciao. Dopodiché loro ciao. Fanno il loro mestiere e sono anche simpatiche. Raul cosa da Roma, che schifo, Raul da Roma, la libertà viene calpestata ogni secondo, la libertà. Il vostro programma radio ha passato il segno, è da mesi che fate disinformazione, come fate? Questo qui mi scrive a me, fate. E Cruciani, disinformazione sul Covid. Raul. Ma negli ultimi giorni Cruciani ha davvero esagerato, in nome di una aberrante libertà di parola, Cruciani dà spazio a deliri e informazioni sul Covid completamente falsi. Ottimo, hai ragione. Ottimo, metto una medaglia sul petto. Raul da Roma, Raul bravo, da Roma. Bravo, bravissimo, bravissimo. Devo dire, mi è stato un mito, Parenzo, una persona, un letterato equilibrato, una persona di sani principi, che non so se sia vero, forse la voce ha tratto d'inganno, la voce da dopo Gigio che c'ha lui, però che c'è il culo discusso, insomma, potrebbe pure darsi, ma che problema c'è? è una cosa normale, è una cosa normale, normale, ma abbiamo una testimonianza, ragazzi, su, abbiamo una testimonianza, assurda disinformazione, normale, normalissimo, Parenzo, non guarda, puoi difendere l'omosessualità in generale e poi prendertela, risentirti perché c'è una testimonianza nero su bianco, vi invito voce di un transessuale con cui ha avuto rapporti. Hai preso la voce, hai preso la voce di uno, è uno scherzo anche ben riuscito per quello, va benissimo, e quindi non mi offendo, scherzo, non è mi offende, un... Vabbè, mi diverte, non c'è nessun fermi problema. Tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi. La zanzara. Madonna, ma che fastidio che mi dà David quando parla di scienza. David, tu di scienza non capisci un cazzo. Non riempirti la bocca di parole, di grandi nomi di scienziati. Tu di scienza non capisci un cazzo. E ne è la prova che credevi a quel cazzo di pendaglio coi cationi, figa. Ma ficcatile in culo, i cationi, non capisci niente. Quindi taci e non parlare mai più, visto che hai fatto il classico e a malapena saprai risolvere un'equazione di secondo grado, forse manco sai cos'è un'equazione di secondo grado, quindi non parlare di scienza. Quando l'altra sera diceva di non essere interessato a certe cose, me lo immaginavo nudo con le chiappe al vento mentre mi diceva ti prego fammi subire, fammi male, quelle cose che diceva lui, insomma. Ogni tanto nei suoi deliri mi chiamo Urbano e mi chiede di urlare che non è un bravo giornalista. Ragazzi, sono testimonianze dirette e ve lo posso assicurare, non c'è nessun montaggio, una testimonianza diretta che è arrivata da un transessuale, non so, romano, non credo romano, no, frequentato per un periodo, prima. No, ho detto non mi sembra, non lo so, non ha dato le sue generalità, è un file arrivato, te lo posso assicurare, te lo giuro su mia figlia, non è un fake, non giurare su tua non figlia, ma te lo posso giurare, uno che ha fatto uno scherzo e che te l'ha mandato, ma certo. Ragazzi, ma è tutto vero, è tutto vero, se giuri su tua figlia è brutto, la gente pensa che sia vero, no, ma è certo che è vero, è tutto vero. La testimonianza è vera. In onda una cosa, no, ma è vera, poi magari è falsa. Per prendervi in giro dice questo e giuri pure su tua figlia, ma sarebbe un po' grave se no, fosse ma non è vero, capito, no? Non ho detto che è vero che è successo. No, hai detto che è arrivato questo file e giuri su tua figlia che è vero. Che non è artefatto da noi, in questo senso. No, ma l'avrà che costruito non è qualcuno, poi ce l'avete costruito per bene. Ma è divertente, va bene. Okay, ma roba bello incredibile. Scherzo. Ma perché devi negare la realtà? Ma non riesco su tua a capire. Almeno, perché no, le cose che sono... non è una perché, cosa. Poverina, adesso lo scherzo va bene, ma giurare sulla testa su tua figlia mi pare una cosa un po' pesantuccia. Allora, Beatrice, no, Beatrice però, ci carità. Ha chiamato. Beatrice, comunque le cose che hai detto sono gravissime. Chi va transessuale è malato. No, malato. Malato hai detto, malato, sbalvolato e malato. Sbalvolato, malato, è malato. Pervertito. Che secondo pervertito, te chi va a transessuale è un pervertito, certo, e lo dici in senso negativo, sì, un pervertito, certo, maledetto, dici chi va, sì, maledetto non l'ho detto, ma Beatrice, che mi hanno profondamente ferita, è veramente un bastardo. Beatrice, vai, Beatrice, cosa incredibile. Pronto? Incredibile. Dimmi. Allora, dimmi, Beatrice. Dopo anni veramente di amicizia, di stima verso Parenzo, sono veramente allibita, arrabbiata, triste delle frasi volgari che ha detto, delle frasi bruttissime, mi trovo costretta. Sì, costretto a non fare il solito a rivolgermi al MIT, il Movimento Italiano Transessuale, assolutamente sì. E anche allo sportello antidiscriminazione del Ministero delle Pari Opportunità. Qual è la frase sotto accusa? Scusa, Beatrice, la frase che ti ha colpito qual è? Quella che chi va con le transessuali è un malato. Allora mio marito è un malato. Esatto. Beh sì. Beh sì, probabilmente se glielo rispondi pure, qualche problema rincara, ce l'ha. Probabilmente se suo marito ha qualche problema ce l'ha, non è soddisfatto da lei ed evidentemente no, se va a cercare la terza via. Lei è transessuale, ma dunque, chi è transessuale? Ha sposato lei, transessuale, Beatrice. Vabbè, ha sposato, ma Beatrice avrà una sua vita e viva benissimo, ma con questo maschio. E dunque maschio, stai dicendo che suo marito ma è un malato. Hanno un loro menage, va benissimo. Vai fino in fondo, hanno un loro ti difendiamo noi davanti all'ufficio legale dei transessuali. l'esercizio legale di chi, che ho combattuto sempre per i diritti che loro possono scrivere, Beatrice, ti devi vergognare quello che vogliono. Di quello che io hai dico detto, che chi va, ci sono tante transessuali che non fanno la puttana, ok, ci sono tante transessuali che lavorano normalmente, che hanno proprio compagni, certo. e quelli che io ci parlato va, di quelli che vanno, io ho parlato di quelli che vanno, quelli che vanno veramente omo transfobiche, ma profondamente. No, però scusi, anche lei purtroppo continua a non capire. Il diritto a essere transessuali non prenditi è in discussione in alcun modo. Partito della famiglia. Ma figuriamoci, ma che me ne frega bene della socialista. Famiglia. Te sei omotransfobico. Ma ci sarà una differenza tra difendere il diritto e dire che uno ci va o ad andarci? No, sarà diverso o no? Ma no, scusami. No, cioè uno che difende i diritti transessuali deve anche andare a transessuale, non l'ho capito. Come giornalista non ti puoi permettere a una radio nazionale. Io ho detto che chi va, dal mio punto di vista, chi va sicuramente è un po', come dire, curioso. No, malato, hai detto, Malato avrò sbagliato, sì, per carità. No, ma lo dici sempre, lo dici. Chiedi scusa. Allora, chiedo scusa se qualcuno si è offeso, ma ci mancherebbe altro, quello sicuramente. Grazie, posso continuare a considerare chi va? Carmen da Padova, hai detto sono malati, sono disturbati, se sono delle persone. Se qualcuno si è offeso, Carmen chiedo da Padova, scusa. Vai, dopodiché il mio giudizio è che chi va, è un disturbato, posso continuare ma a pensarlo? Perché? Perché come chi va prostitute è un malefico. Dimmi Carmen, dimmi. Chi è? Ciao Cruciani. Ciao, con chi parlo? Con Carmen da Padova. Sì, ma chi sei? Un transessuale? No, no, sono una donna. Sei una donna, ma anche qua. Vabbè. Sei una donna, vabbè, dunque, dimmi. Adesso mi chiamasse uno normale. Dimmi. Per normale intendo una persona normale, come dire. Ma normale, chiamassi uno normale. Devi stare zitto qualche volta. Ma in questa trasmissione non chiama mai nessuno di normale. Non mi riferisco a Carmen, a Franco, al trans, alla cosa. Dico, allora, non ne chiama uno di dritto. Carmen, ma di dritto, io farei. Non dal punto di vista sessuale. Carmen, tu sei trans, però diciamo la verità, sei trans, dai, diciamo. No, tu. No, io non sono trans, io sono una donna. Sì, sei una donna. Mi piace il cazzo. Viva, vedi che non è normale neanche questo. Mi piace andare con un trans per una sana trasmissione. No, Carmen. Che problema c'è, Davide? No, tu sei. Ma tu signora, sei se lei signora, vuole, lei può all'uccello, con chi diciamo le pare. La verità, lei è all'uccello, diciamola tutta, signora Carmen. È inutile nascondere questa. Ascolta un attimo. Oh. A me mi piace il cazzo. Vabbè, ma questo, posso dire chi se ne frega, signora, non sarà né la prima né l'ultima. Signora Carmen, non sarà né la prima, ma va bene, ma evviva per lei, evviva per lei. Dopodiché non sarà né la prima né l'ultima che le piace quella roba lì, ma chi se ne frega? A te che te ne frega? Ma non me ne frega nulla, infatti, non mi interessa. Allora, è lei che ha chiamato per dire che cosa le piace. Perché devi dire che chi va a trans è un malato? Perché devi dire che storia, sono malata, sa? Non è un deviato, Carmen non è deviato. No, adesso io dalla voce, però non è per quei gusti, però mi permetta, non è per i suoi gusti sessuali che dico che lei è un po' strambotta, è per quello che dice. Una persona normale non telefonerebbe mai a una radio dicendo a me piace. Mai. Vabbè, Carmen. Ma perché? Qual è il problema? Scusa il problema è che siete dei disturbati. Voi che chiamate, ma indipendentemente dal gusto no, sessuale. Tu sei disturbato, fascista. Adesso, secondo lei, è normale. Fascista. Che una fascista. Sì, tu fascista sei un io. Disturbato. No, io. Adesso, secondo lei, è normale. Una trasmissione sana ogni tanto. Sa? Va bene, una trasmissione questa sana. Questa benissimo. È trans, faccia questa la trans. Sua trasgressione. Io no, gliela non le dirò. Metti cogni alla moglie. Questa è una. Come? La moglie? Come? Se metti i corni alla moglie. Ma chi? Chi? Tu sei malato. Ma no, non ho fatto niente, veramente. Che cazzo volete da me oggi? Non ho capito. Ciao, Carmen. Ciao. Ma ciao. Gianluca da Rimini, vai, Gianluca da Rimini. Comunque, ragazzi, il caso è scoppiato ormai. Dimmi. Allora, intanto buonasera un cazzo, chiamo da Rimini, sono chef di ristorante cesenatico. Sì, sì. Per l'ennesima volta sti figli di puttana, maledetti, ci hanno messo in zona arancione. Sì, ma anche perché sono alle cattivi. Alle 5:15. Sì, alle 5:15 sì, di pomeriggio. Da lunedì sarà, credo, no? O non lo so. No, no, da domenica. Da domenica. Allora, Parenzo, sto calmo perché altrimenti stasera è un casino. Allora, no, sfogati pure. Ma non posso perché dopo non ho i soldi per potermi permettere un processo. Ti sono arrivati i soldi? Non è arrivato un cazzo. Non è arrivato un cazzo. Il problema non è quello. Io ho fatto la spesa, ho fatto gli ordini, pesce, verdura, carne. Dai, su. Per fare il weekend. Sì. Perché domani a pranzo abbiamo prenotati, domenica a pranzo avevamo già un bel numero di prenotati di gente che veniva a mangiare tutto da noi. Tutto in fumo, tutto da buttare. Tutto a puttane, tutto fuori. Ma io sti soldi che ho speso, non te, cazzo me li dà. Non te li darà più nessuno. Facci sapere non se l'agenzia delle entrate. Ma quale agenzia delle entrate? Basta con questa buffonata. Io conosco molti imprenditori che hanno ricevuto i soldi sul conto corrente. Ma non dà un cazzo nessuno. Non danno un cazzo nessuno. Abbiamo i dipendenti che praticamente non hanno la copertura per quanto riguarda la cassa integrazione, perché alcuni sono stati assunti dopo il 13 di luglio, quindi... Gianluca, quanto sei incazzato? Li hai chiamati figli di puttana, naturalmente, perché dall'oggi al domani ti buttano all'aria, ti mandano in fumo un attimo. Cruciani, ho scritto un po' sul mio Facebook e ho scritto la prima parola che ho scritto... Se li avessi tra le mani non oso immaginare cosa non li farei, ma tutti, a partire da quel deficiente che con la cravatta va in televisione a fare tutto il perbenista, e gente che non ha coscienza, e gente che non ha la realtà di quello che sta succedendo. Loro dicono che è per proteggere la salute, certo, no? La salute, no, di tutti. Allora Giuseppe, ascolta, dai. Noi siamo aperti a pranzo, stiamo facendo la media di 20, 25, 30 persone, sì, in un ristorante che ha 140 posti a sedere di capienza. Sì. Tu mi dici quale cazzo di contagio si potrà essere su 15 persone disposte in una sala da 140 posti a sedere? Guarda, il problema io l'ho posto già tempo fa. Che cosa vuoi dire? È ovvio che è d'accordo. Ma con Bassetti, faccio un mestiere. Fai il medico, non fai il conduttore radiofonico che spara cazzate, infatti. Ragazzi, no, io dico solo questo: libertà con le protezioni, ma libertà. Non hai responsabilità di nulla. Libertà, state rovinando. Tu non hai nessuna responsabilità. Un'intera generazione di persone per una roba che è una mortalità bassissima. Avete rotto il cazzo. Io sono con Gianluca. Ma cosa vuol dire sono con Gianluca? Tutti sono con Gianluca. Nessuno con vorrebbe. Lusaferro, ma per sei carità. Con Ricciardi, ma sei con Crisanti. Ma per io carità. Sono con Gianluca. Tu questa non hai è la divisione. Responsabilità questo di nulla. È il fronte. E infatti dici stronzate. Questo è il questa fronte. È la differenza. No. Il fronte è chi dice stronzate come te, perché non ha nessuna responsabilità e vuole gli applausi della gente incazzata. Ecco perché sei uno stronzo. Perché tu vuoi gli applausi della gente incazzata. No, tu, guarda, come del Debbio, come quelli che erano ieri a Rete 4 a fare la corte all'opposizione, tutta gente che è pronta a prendersi applausi tanto e non ha un cazzo di responsabilità su niente. Vi fate prendere per il culo da questa gente qua voi. Lei si fa prendere per il culo da questi irresponsabili. Ma perché lo prendi per scemo, Gianluca? No, lui non è scemo, lui lo stai prendendo per idiota, per un idiota. Tu per prenderti un applauso da questo qua, questo poveretto. Tu David, hai il culo al caldo, lui no. Di applausi. Questo poveretto perché chiaramente non guadagna. Stanno andando via. Ragazzi, qua si tratta di soldi che noi stiamo perdendo. Sì, ma non farti nessuno. Pigliare per il culo da questi qui. Ma non rompere i coglioni. Pigliare per soldi, il culo. Ragazzi, questi hanno il culo al caldo. Più rispetto, di te. Rispetto devi avere per chi chiude. Dai, questi per chi ha buttato la roba come Gianluca. Questi qua ma hanno non parlare il culo di caldo. Questo non parlare di me. Euro. Parla di questo che ha dovuto buttare un sacco di roba. Non parlare di questo che ti sta facendo il pelo. Questo qua c'ha il culo al caldo, caro Gianluca. Ma che c'entra? A dondolare da questi pifferai magici di merda. Ciao Gianluca, ciao. Allora ragazzi, adesso proviamo a chiamare quello che ha fatto il video a Napoli, al Cardarelli, Rosario? Buonasera, sono Cruciani, ciao, Radio 24. Sì, buonasera. Come stai, Rosario? Tutto bene. Covid? No, il Covid è un po' peggiorato, però tranquillo, per il momento sto bene. Sotto controllo, il saturimetro ce l'hai là, come si chiama quello per controllare? Il saturimetro, sì, c'ho tutto a casa, però il medico curante non mi risponde. Senti, io ti ho chiamato qui da Radio 24 perché oggi il governatore della tua regione, sì, tu sei a Marigliano, praticamente ti ha dato dello sciacallo. Sì, l'ho risposto anche sul telecapri, purtroppo non... Ha detto che hai uno stomaco animalesco, sì, vabbè, lascia perdere le telecapri. Ma come gli rispondi a lui, che ha detto hai sciacallato, hai approfittato della situazione lui, per fare... Lui che così vuole fare tanto il professore, sciacallaggio significa che in tempo di terremoto tu vai a devastare la città. Io ho fatto solo un video perché avevo paura di morire, che quello che è successo invece è certo. Successo a me. Lui... Io ho ripetuto che non mi abbassa i suoi livelli, lui è un buffone perché Napoli l'ha votato perché lui fa la pubblicità dei panettoni, regala le champagne e questo. Napoli ha un cuore e l'ha votato. Io sono napoletano e non mi vergogno di essere ma tu napoletano. L'hai votato? Tu l'hai votato? No, De Luca? Non ho votato, no, lui no, ho votato Di Maio. No, ma De Luca alle regionali l'hai votato? No, tu? No, non l'ho votato proprio. Non voto però io. Lui ha detto delle cose molto pesanti su di te. Anche alcuni, anche alcuni dipendenti del Cardarelli hanno detto che tu praticamente sei andato lì a fare delle foto. La dottoressa che mi ha detto quelle parole mi ha chiamato oggi con l'anonimo dicendomi che sono positivo, con un numero anonimo senza dire. Dice che sei un disturbato con un comportamento ossessivo, così ha detto. Sì, così ha detto. Sì, io purtroppo sono sano di mente, sono un po' arrabbiato con la mala sanità, forse sono un carattere molto... Non mi passa la mosca per il naso. Però ti leggo quello che ha detto. Un uomo disturbato che nel breve tempo nel quale è stato ricoverato ha tenuto un comportamento ossessivo. Il primario del pronto soccorso del Cardarelli definisce del tutto false le accuse mosse sui social. Tutto il personale del pronto soccorso sottopone a turni massacranti, eccetera. Quale sarebbe questo comportamento ossessivo? Che tu sei andato lì dentro... È il comportamento che io ho filmato perché loro dichiarano che il deceduto è morto sul letto. È morto nel letto. No, quello non lo possono dire. Ah, loro dicono questo, che è morto nel letto. Non hai sentito l'adulto che hanno detto i familiari? Che hanno detto? Che è morto sul letto. Hanno già avuto la chiamata e il loro papà è morto sul letto. Il loro nonno è morto nel letto. Poi hanno visto il video che stava a terra e dicono com'è. L'ospedale ha detto una bugia. Praticamente l'ospedale ha detto ai familiari che era morto sul letto. Esatto. De Luca si deve vergognare perché lui è quello che gestisce gli ospedali. Ma com'era la situazione al Cardarelli? Spiegamela tu che sei stato lì dentro. Mi credi? Mi credi? Un consiglio? Ti credo, certo, sei stato lì, ti credo. È devastante. Mi dispiace per i medici, per le infermiere che fanno il loro lavoro, ma ne sono troppo pochi. Non possono sopportare tutta quella carenza di Covid. Ci vuole più personale. Che cos'è che manca? Il personale, De Luca costruisce l'ospedale e non mette il personale. Che le costruisce a fare questo ospedale? Scusami, De Luca. Ma c'era anche commissione, c'era gente malati di Covid insieme a gente non di Covid. No, sono tutti Covid. Là se vai per un mal di testa diventi Covid perché vai insieme al Covid subito. Senti, ma spiegami una cosa. Qualcuno ti accusa di avere, qualcuno parla di sciacallaggio, di esserti, di non esserti preoccupato di quel signore, ma di avere semplicemente, di esserti messo lì a filmare la cosa. Non è vero. Io ho preso il telefono quando ho chiesto aiuto e nessuno non mi è stato dato un aiuto. Ho preso il telefono per registrare. Se vedi il video, vedi che io chiedo aiuto. Una signora chiama i carabinieri. Sì. E il secondo video l'ho fatto quando il defunto è deceduto. Ho detto, guarda qua, Cardarelli è deceduto. Io l'ho fatto perché avevo il sangue caldo, ma non volevo prendere il beccetto a terra, volevo far capire la mala sanità, che nessuno mi ha aiutato. Ma quante persone, quanto tempo è stato per terra questo signore? Ma è stato buona più una mezz'oretta. Dopo mezz'ora abbiamo detto personale. Cioè mezz'ora per terra è stato così, sì, sdraiato per terra in bagno. È venuto dopo mezz'ora i medici, dopo mezz'ora sono venuti. Roba incredibile, ragazzi. Hanno dato la morte dopo un'altra ora, l'hanno messo in un sacco, stesso sul letto suo, che hanno detto che è andato a prendere la barella, invece non è vero. Stesso sul letto suo, hanno messo un sacco bianco, un lenzuolo. È stata un'altra ora e mezza nella stanza. Comunque, insieme a noi. Comunque io voglio dire una cosa, qualcuno ti ha definito uno sciacallo del web perché hai pubblicato tutto, per De Luca addirittura ha detto no, ma è uno stomaco animalesco, e tu se vuoi te lo faccio sentire. Lo stomaco animalesco, c'era lui che fa mangiare la gente malata nella loro pipì, non fa pulire, quello è uno stomaco animalesco, vedere un proprio genitore nella pipì sua dove gli infermieri gli posano il cibo. L'infermiera ha lo stomaco animalesco che ti posa il cibo, non di pulirlo e di mettere il cibo e di farlo mangiare. Ma questa è davvero la situazione a Cardarelli, amico mio? Sì, questa è la situazione a Cardarelli. questa è la situazione a Cardarelli. De Luca vuole fare il governatore, ma non lo può fare il governatore. De Luca tra poco si deve chiudere dentro, sai perché? Perché i napoletani vanno a bussare fuori casa sua, gli deve dare anche a mangiare per quello che ha fatto, ha distrutto la Campania. Vabbè, questo è un altro discorso, quello è stato votato due volte, voglio dire, la sì, gente... Ma perché, sì, perché lui ha saputo appoggiare Napoli, Senti, senti una cosa, tu a te però questa infermiera, questa non la conosco proprio, mi ha chiamato oggi la infermiera che mi ha dimesso. Sì. No, il primario del pronto soccorso che dice che sei un uomo disturbato, eccetera. Tu sì, dice che io sono disturbato perché ho un carattere forse che io non mi... Se vedo perché una cosa ti sei messo lì a fare continuamente immagini, a riprendere qualsiasi... Ma io ho ripreso solo che nessuno c'era. Io quello che ho fatto, ho ripreso il personale che non c'era, la gente che ci deve un aiuto di una carenza medica, pubblica, sì. ci metti sui network, avevo mandato su WhatsApp a mia moglie. Ma mia certo, moglie, ma hai fatto benissimo, quando bisogna, sì. Quando uno è là dentro e deve riprendere quello che non funziona, sì. Ma ragazzi, quella Luca, è roba pubblica, è roba nostra. Aspettava che io non sì, però c'è modo per farla dovevano dichiarare che il signore era morto sul letto. Per questo hanno dato fastidio, perché per loro se uno va con la testa a terra, dichiarano che è morto con l'arresto cardiaco, non dichiarano che stava a terra, che è caduto con la testa e ha battuto la testa, capito? Cioè, ma spiegami, tu hai seguito tutta la scena di quando il signore si è uscito dal letto? Tutto, io stavo appresso a lui, io stavo appresso al signore. Che è successo? Raccontami bene, è un minuto. Che io vado in bagno, lo accompagno, lo prendo in braccio e lo metto sul letto, chiamo l'infermiere, dice guarda, vendiamo il catetere, dopo due ore non è venuto l'infermiere, il vecchietto non ce l'ha fatta più, perché sì. Era autonomo, aveva una forza di un leone quel vecchietto, sì. Ci ha dato, ha bussato la porta, è entrato in bagno. Io l'ho fatto sedere sul bagno, l'ho dato una mano, dopo 5 minuti ho aperto la porta, stavo ancora facendo i bisogni, dopo altri 7-8 minuti ho aperto la porta, stavo a terra, sì. Subito ho aperto la porta, ho messo un bidone della spazzatura di plastica, però che si chiudeva la porta, perché la porta quella scorreva. Sì, cioè lo stavi aiutando. Sì, per farlo prendere aria, hanno detto anche che hanno rotto la porta, ma quando hanno rotto la porta era aperta. Poi? Io ho preso l'acqua, l'ho buttata in faccia, ho visto che respirava. Esco fuori per chiamare aiuto, nessuno mi risponde, prendo il telefono, video, faccio il video, poso il telefono, mi metto i guanti. Scusi, lei fa il video mentre aspetta, poi vai avanti. Cioè gli butta l'acqua e poi fa il video, vedo che è ancora vivo, chiedo una bombola dell'ossigeno che non mi viene fatto il video, però. Ma quando è che è caduto? Il momento in cui è caduto? Quando è stato? L'hai visto tu il momento in cui è caduto? No, perché quando io ho aperto la porta già stava a terra nel bagno. Ma scusi, ma lei nel momento, io sono stato zitto per ascoltarla, ma nel momento in cui lei gli butta l'acqua in faccia, perché tanto buttare l'acqua in faccia a uno che vede per terra mi sembra incredibile. Uno si china, cerca di capire, dice come sta, è che gli butta l'acqua in faccia. Non è che è compito suo. Comunque poi si mette a fare il video, scusi, ma io mi sarei sgolato per trovare qualcuno, no? Mi sarei messo a fare non il video. Non mi aiutava nessuno. E quindi lei fa il video? E certo, per testimoniare quello che è successo, ha fatto benissimo. Ma come ha fatto benissimo? No, aspetta che capiamo com'è andata, ma non ho capito. Questo sta in un ospedale. Mi butta l'acqua in faccia. L'ho buttata in faccia. La gente faceva ferma. Non sai se sei infetto, perché ancora oggi ho saputo che sono positivo al Covid-19. Sì. Precisiamo. Io ho buttato l'acqua in faccia. Lui ha muovuto la bocca e dice aiutami, serviva l'ossigeno, non serviva l'attacco cardiaco. Io ho chiesto una bombola alla guardia, la guardia deve aspettare il medico. Poi? Il tempo che io sono uscito fuori, la polizia di Stato è entrata a chiamare i medici, vicino a me, fatti tu, aspetta i medici. Sono usciti fuori, dopo mezz'ora sono arrivati i medici, perché è deceduto. E io ho fatto giusto, e io mi sono ribellato sui medici, perché è una cosa inaccettabile. Scusa, spiegami una cosa, tu hai visto il momento in cui lui si è piegato e ha battuto la testa per terra? No, stava già a terra. Comunque ragazzi, questo qua secondo voi è uno sciacallo oppure uno che ha voluto testimoniare quello che è successo? Questa è la realtà dei fatti. Per me è uno che ha voluto testimoniare quello che è successo ed è stato... L'ho fatto a sangue qua caldo perché non avevo paura. Ed è stato definito dal presidente della regione uno sciacallo, chiaro? Uno che ha voluto testimoniare un fatto di cronaca gravissimo all'interno del Cardarelli. Ma quello va benissimo. A chiamarlo, non certo, c'è nessuno. Ciao, ma difendi chiunque tu proprio, ciao, senza Rosario, sapere usare le tutta, cose. Ciao, ciao, la ringrazio, buona ciao, giornata. Ciao, avanti tutto. La Zanzara. Dai, Cucciani, vai a chiedere a Coso, a Parenzo, se si fa leccare il culo, lui senti, lecca i culi. Rider numero uno. Ha sempre cazzi, leccherà sempre. Rider. Lui lecca i culi, altro che CPCT. Oh, Cruciani, digli a quel bastardo porco di Parenzo che stamattina dovevo entrare in una clinica per una settimana perché mi è venuto male a un ginocchio, sai andare in bicicletta. Sai cosa mi hanno fatto? Oggi è venerdì, facciamo un tampone. Se poi lunedì sei negativo, ti diamo il risultato che sei negativo, martedì puoi entrare. Ma che cazzo di discorsi sono? Se questi non vedono l'ora di fare dei tamponi. Se mi fai venerdì allora il tampone e poi mi fai entrare martedì e non posso prendere il virus sabato, domenica o lunedì. Ma ti rendi conto che non vedono l'ora di fare dei tamponi, per fare dei numeri per riempire la bocca di quel serpente malefico maledetto di Parenzo? Scemo che sei, se ti fai il tampone sabato, venerdì, questi pensano che il weekend ce n'è ancora, casa, non è che vai ce n'è in giro, ancora ovviamente. Su di te, incredibile, cioè, ce n'è ancora, ce n'è ancora. Questo è scemo proprio. Ce n'è ancora. Uno fa il tampone venerdì, deve stare a casa il weekend e martedì guarda, gli non è risultato. Serata, ma te lo potrei scatenare il rider, non ma è serata, non è scemo, serata. Ma perché è vorrei scemo, ancora approfondire la storia del trans, vorrei ma ancora approfondire. Comunque ho lì la merda silenziosa, quelli della parte di quello stronzo di Parenzo. Cioè per me niente, si sono mobilitati contro di me. Cioè che è successo? Cioè, mi è stata rubata la bicicletta. Lì dove me l'ha rubata è stata lasciata una faccia, il martello e un tridente d'oro, tipo i candelabri che c'hanno i rabbini. Sì. Io non so, forse era lì la cosa silenziosa. Ragazzi, qua parte l'inferno, scateniamo l'inferno, mi hanno rubato la bici, non posso più fare il ride, sono in bolletta adesso. Guarda, la bolletta porta a cattiveria, Parenzo. Sappi solo Parenzo che questa me la paghi. Ma questa è un imbecille. A me non fa ridere, posso dirti. Non mi fa ridere. Legittimo mi fa ridere, perché è un coglione. Alessandro dalla provincia di Cagliari, vai Alessandro, dimmi. Un po' ciao Cruciani, come stai? Dimmi, bene, dimmi. Niente, io ho chiamato. Intanto mi arrivano dei messaggi da parte di un tale Franzoni, te lo ricordi, quello là, proprietario di alcuni bar a Massa Carrara, quello che pisciò davanti alla targhetta della presidenza del Consiglio a Roma, uno che vuole fare la marcia su Roma. Domenica occupiamo Roma, devi dire a Parenzo che prende il primo volo ed espatri. Portiamo 100.000 persone, occupiamo obiettivi, sarà la guerra in strada, eccetera, eccetera. Metto una cosa qui a aspettare. Quasi da dare i messaggi alla Digos, ai cari amici della Digos. Va bene, Alessandro, dimmi. Niente, io mi reputo uno della maggioranza silenziosa, anche se ora Parenzo dirà che non lo sono perché ho chiamato, però sono rimasto disgustato dal modo in cui lui ha attaccato le persone che vanno a pranzo. Giusto, corretto. Io sono un ragazzo le persone, bravo. Vado ogni tanto mi capita qualche scappatella, che male c'è. Coi trans, anche sì. Ma passivo o attivo? Con loro passivo, con i trans. Ma se ti piace così, fallo, che ti devo dire io? Sì, ma il fatto è che tu, Parenzo, fai tanto il progressista. Ma che ti frega? Però cosa c'entra? Che te ne frega del mio giudizio? Io difendo i loro diritti a essere quel che sono. Posso giudicarti, ma posso provare a giudicare uno come te? Posso? Ma perché se lo piglia in culo da un trans? Mica è un perverso, mica è un malato. Secondo me tu sei. Aspetta, Parenzo, io ho un rapporto di amore e odio con te, perché secondo me tu sei una persona che ha una grande capacità critica, conoscitiva e cultura. Sei l'unica persona, insomma, che dà pareri razionali. Okay, però quando si parla di sesso, di queste cose, porcherie, dico che sono argomenti da trattare in modo riservato, non in modo così esibizionista. Ma tu non puoi dire davanti a un sacco di persone chi va a trans è un mentecatto. Posso posso dire che è un disturbato, però posso dirlo, che se uno ha una famiglia e va, posso dire che è disturbato, ma no. Ogni tanto lo piglia in culo da un trans e che sarà mai. Viva, se si diverte che lo faccia. Un sacco di persone trans vengono picchiate. Non ho mai detto nulla del genere. Ciao Alessandro, ciao. Che serata, ragazzi. Vabbè, viene interpretata ogni chiamiamo Franzoni. Vabbè, però poi tu te la sei chiamata questa, dai, su, Pronto, ciao Cruciani, come stai? Tutto bene? Franzoni, guarda che hai detto delle cose di una gravità assoluta. I quali? Domenico occupiamo Roma. Sì, occupiamo Roma. Domenico, occupiamo Roma. Ma qua si occupiamo devi Roma. Dire a Parenzo, devi dire a Parenzo che prende il primo volo ed espatria. Parenzo. No, espatria. Deve espatriare come il 90% dei giornalisti che sono sono qua a godermi lo spettacolo. Mondiale. Sono qua a godermi la figura di merda che farai. Sì, sono qua al balcone. Al balcone! Sto al balcone! I nazi comunisti governate questo paese. Siete alla fine perché Trump vince al balcone. Sto al balcone. Sto al balcone. In culo, Parenzo. Avete inventato un bluff. Il tampone non rileva la sintomatologia. Ma cosa c'entra questo? Ma cosa, non parlare di cose più grandi di te che non sai. La pandemia finta. È un'emergenza. Non parlare di cose che non sai. Pagliaccio, parodia del fascismo. Parodia, armata Branca Leone. Sei il tuo amico Conte, fate una brutta fine. Sei l'armata Branca Leone, sei patetico. Scusa. Pigliate il volo. Franzoni. Ora ti dico cosa facciamo domenica. O escono da Palazzo Madama e dal Parlamento, non facciamo come la domenica. Che fate? Li muriamo vivi dentro e si mangiano tra di loro sti politici di merda. Ma sei impazzito, sei? Non ho capito cosa vuol fare. A parte che segnaliamo tutto alla polizia. Ma segnaliamo tutto alla polizia, ma tanto è una buffonata. Ma la segnaliamo. Spiegami la tua giornata di domenica, patetico. Spiegami la giornata di domenica. Spiegamela. Cazzo la dico, se stiamo arrivando vi travolgiamo. Ma chi? Non difendete chi? Il governo. Te non ti immagini la gente che viene a Roma domenica. Ma non ho ma capito. Ma che paura. Brr, che paura. Mi metto al balcone. Stai dicendo che ci saranno violenze. Non ci ferma neanche l'esercito, Cruciani. Ma stai dicendo che ci sarà violenza, perché a Napoli sono successe delle violenze. Noi non spacchiamo le vetrine, noi sfondiamo i palazzi del potere. Bella dichiarazione di reati. Noi questo governo di infami, traditori del popolo e assassini, perché hanno massacrato 35.000 persone. I morti Covid potevano essere salvati. Allora ci sono i morti. Allora ci sono i morti Covid, perché prima dici che il Covid è una buffonata e poi dici che non ci sono i morti. Le vere cure, quelle con la clorochina, vengono assolutamente bannate perché c'è una speculazione economica. Hai scritto occupiamo 5 obiettivi sensibili. Ma che roba è? Sì. Ma che sono i colonnelli? Che cos'è sta roba? Occupiamo 5 preoccupare. Esautoriamo il governo. Esautoriamo il governo. Guerra per strada. Vaticano e mettiamo fine all'anticristo. Bergoglio è l'anticristo. Mi pare un progetto abbastanza complesso. Ora Bergoglio è l'anticristo. Bergoglio è l'anticristo. Ma non andargli dietro. Il servo degli illuminati. Ma cosa gli chiedi a sto scemo? Vuole occupare il Vaticano, ma è uno scemo, deve richiudere in un ospedale. Ma il signor Viganò gli ha scritto che è un agente del nemico e che lavora per il nuovo ordine mondiale. Aridaglia questo nuovo ordine mondiale. No, fermati un attimo. Lo scrive Nunzio Apostolico, ma qua rinunzio, non dire cazzate. Parliamo di cose serie. Spiegami la tua giornata di domenica, mi interessa. Spiegami la tua giornata di domenica, stupido. Spiegami, allora prendi lo zainetto. Cosa fai domenica, sciocco, stupido megalomane, stupido? Calmiamoci, chiedi a sto megalomane scemo cosa fa domenica. Fermo un attimo, allora Franzoni, scusami un attimo, mi vuoi spiegare domenica cosa fai? Franzoni, calmati un attimo. Allora, tu mi hai detto semplicemente domenica occupiamo Roma, Parenzo deve espatriare, portiamo lì 100.000 persone, occupiamo 5 obiettivi sensibili, paralizziamo tutta la città, esautoriamo il governo, occupiamo 5 obiettivi sensibili, sì. Sfondiamo i palazzi del potere, reato. Esautoriamo il governo noi esautoriamo, lo togliamo di mezzo. C'è noi. Il golpe, vuoi fare un golpe? Vuoi fare un golpe praticamente, un golpe. Facciamo un'insurrezione popolare. Un golpe? Ma ragazzi, dai, su. Ma non ce ne frega un cazzo, ma io devo avere 4 teste di cazzo al governo di questo paese. Calmiamoci, cerchiamo di analizzare serenamente la situazione. Ma voi state scherzando? Sì, cerchiamo di analizzare la situazione con serenità. Allora, noi abbiamo un signore che si proclama fascista, sì, che è un mezzo matto, e dice di venire giù con un manipolo di 100.000 persone su Roma e vuole occupare anche il Vaticano. Allora, questo anche idiota Vaticano, non va fermato Vaticano. Dalla polizia, va fermato dalle ambulanze, non dalla polizia. Vai anche in culo. Hai capito, Paolo? Vabbè, questo adesso sì, cosa vuol dire? E questo tutti i servi del nuovo ordine, andate a fanculo. Del nuovo ordine. Sulla sì, ma com'è la gita domenica? Qual è il programma? Ore 9? Che ragionano. Ore 9 dove domenica? No, dimmi, voglio esserci. Ore 9 dove? Ore 15. Come alle 15, amico mio, alle 3 di pomeriggio. Nella notte si occupa, no? Il pomeriggio alle 3. Che ti diamo due calcetti nel culo. Non ti facciamo. Ma come alle 3? All'ora del tè, sì, però, ma che cazzo fai alle 3 del pomeriggio? Non ce ne... Cosa fai alle 3 del pomeriggio? Ma la mattina prestissimo. Perché non c'è nessuno. I colpi vanno fatti la mattina prestissimo, nella notte, no? Alle 3 del pomeriggio, coglione. Voi state tranquilli. Paralizziamo la città. Comunque, ragazzi, la è già paralizzata. Non c'è un cazzo di nessuno in giro. Cosa vuoi paralizzare? C'è lockdown, porca puttana. La domenica, che cazzo vuoi paralizzare? Il cervello paralizzato hai tu. Ma dove? Appuntami questo. Comunque, la Digos, la Digos è avvertita. La Digos è avvertita. La Digos è avvertita anche sto cazzo. Che facciamo allora con Parenzo? Lo mandiamo in esilio? Che facciamo? No, Parenzo non mi è proprio antipatico, è scemo e basta. Lo mandiamo al confino, si deve un pochino. Al confine. Dove? Dove al confine? A Ponza, dove? No, a Ponza. Mandiamo, all'hotel di Ponza, Cittadella, bellissima Ponza. No, ora è un momento dico. Che questo nuovo ordine qua, sta tentando dico. Il colpo copo. E che fai tu? E vuole prendere tu, il controllo. E che fai? Mondo, la nuova marcia su Roma di Sua Eccellenza Benito Mussolini, che fai? Sei non nuovo Mussolini. Non c'entra niente Mussolini, qui ci sono anche i comunisti in mezzo a noi. Ciao, ci vediamo domenica. Ciao, ciao, ciao, ciao. La Zanzara. Cruciani, sei uno squallido. Per colpa dei tuoi comportamenti da puttanella doppio giochista, arriveremo a non sentire più un interventista serio in questo programma. Hai fatto intervenire Donato per fargli l'imboscata con quel ciccione spiaggiato sul materasso di Abano, Parenzo, o meglio Frocerenzo, e quel beota buono a nulla di Francesco da Firenze, che probabilmente è un mantenuto dai genitori. La Zanzara. Che casino, non si capisce più nulla. Non c'è più la palestra. C'è un complotto, secondo me, politico, e vogliono uccidere proprio completamente le partite IVA. Per mettere tutto in mano alle multinazionali. Monarca. Con la scusa di questo virus. Il monarca. Sicuramente. È grave perché morire asfissiati è veramente una morte terribile se bicchi Covid. È come morire in un sottomarino affondato in mezzo al mare. In un mondo che non ha futuro, ma che cazzo ve ne frega a voi di morire per il Covid? Ma che cazzo ve ne frega? Cosa cazzo ve ne frega? Pensiamo alle troie invece. In un paese che va a puttane è normale che bisogna andare a puttane. Ed è logico che bisogna avere la libertà di spendere gli ultimi risparmi con giusto, le troie. Questo è il mio comandamento. Parola d'ordine, Escort XP. A presto. Questa è la voce del fronte. E questo è il Monarca, tassista fiorentino, ultra noto naturalmente, Mona, soprattutto no, a Firenze. Ha detto bisogna spendere gli ultimi denari andando a troie. Mona, ma io non chiamerei, Monarca. Chiamerei, ci sono un sacco di ascoltatori, però chiamerei... Amico mio, dovete avere un po' di calma, un po' di pazienza questa sera, perché tra ieri e oggi ho visto una foto di Lele Mora che firmava un contratto con quella Mora. Del Non c'è Covid. Ci mancava con solo Angela Lele Chianello. Mora. Angela Chianello ingaggiata quella Non c'è che Covid, mondo poi questo. Ha fatto quella specie di comparsata, no, comparsata fatta in televisione. Di canzone, con no, di balletto, con un po' di assembramento, è stata convocata dai carabinieri, ha firmato un contratto per farsi rappresentare al signor Lele Mora. L'Italia, ragazzi, chiamiamo Lele. Lele? Chi è? Sono Cruciani, come stai? Qui, ciao, grande caro. Cruciani. Come andiamo, caro Lele? Bene, lei come sta? La vedo in grande forma. Sicuramente mi piace il suo look. C'è anche il signor Parenzo. Lele, detto anche Eila, Eila, Alala. Però vorrei capire una cosa, caro Lele. C'è questo video, questa immagine di te che firmi una specie di contratto con la signora Angela Chianello, la signora di Non c'è Covid. Ti sei rimesso all'opera, come si dice, no? Come si dice che un momento di pubblicità lo devi dare a tutto, specialmente a una persona che ha sofferto, come ha fatto la signora. Ma che ha sofferto questa signora? Cosa ha sofferto? Ma poverina, ha avuto un lutto in famiglia, è stata in carcere. Tutti quelli che in carcere perché cosa? In carcere perché non, cosa? Non lo so, sento quello che dicono le persone che mi chiamano. neanche se avessimo, diciamo, toccato chissà che cosa, abbiamo aiutato una povera donna, ha fatto una canzone tra l'altro carina, dice sulle mani, divertitevi. Ma no, ma io mi diverto come io mi diverto, ma come tu ti un pazzo. Rendi conto, una ma ci vuole un agente per una squinternata che canta ste cazzate? Adesso parliamoci chiaro. Allora, ci vuole un agente per tutto nella vita. Ci vuole un agente per tutto. Ma io voglio capire una cosa: questa signora qua si è messa a fare un balletto, tutti erano senza mascherine, tutti erano. C'era quasi, quasi un assembramento. No, anche no. La firma con te, anche la firma con te, Carolele, non avevate la mascherina. Tu hai anche una certa età, devi stare attento. No? Allora, io ce l'avevo, che la porto sempre, perché tu sai che io ho avuto anche una brutta malattia che appunto devo tenere. E ma la signora era sana, perché si era fatta prima di venire da me in ufficio, che aveva preso l'aereo, che ne sai, sana. Giglione, si ci ha portato la sua carta. Ma canta, sana non si sa canta, mai. Canta, fa il bravo Cruciani. Ma no, ma a me non me ne frega niente. Il punto è questo: c'è una persona che si chiama Angela Chiaello, che ha fatto che una non rispetta le regole. No, incitano a mettersi la mascherina, spalle cazzate, e ora c'ha pure la gente. Ma è una cosa pazzesca in Italia. Sul marciapiede c'è posto per tutte, belle, no, grasse, capito, brutte. Però... Beh, questa allora, è mignotta, questo però... è un vecchio lavoro di una volta. Lei è una signora molto seria con due figli. Sì, però, molto seria. Uno è andato. Ma se lei ha detto su a Mondello non c'è Covid, ma non c'era Covid lì quel periodo. Sì, e oggi non ma, uno deve, ma uno deve, scusa, fammi capire, una che dice c'è, non c'è Covid, vabbè, poi è diventato un tormentone, ma che paese è, ma chi però se ne frega, scusami. Ognuno fa quello che vuole, però se uno vuole avere un agente c'è un agente. E allora anche Eric Pripke dovrebbe avere un agente a questo punto, pure Pripke. Adesso non paragonerei la signora Pripke, ovviamente, però dai, su, cosa io può fare la signora, voglio, cosa può fare, non lo so, ecco, esatto. Comparsate televisive dalla D'Urso, che può fare? Certo, comparsate, non ci vai anche tu dalla D'Urso qualche volta. Certo, ma è assolutamente legittimo, figuriamoci. Sei come, no, ma ha ragione Lele Mora, tu sei come Covid, Cruciani, a questo punto. Tu sei come non sei... ce n'è Covid. Ma guarda, ragione, allora, non mi vergogno per niente, ma assolutamente bisogna non bisogna essere felici quando si fa felice una persona. Anche se la signora ha detto una cazzata, che poi poverina è diventata virale questa cazzata. Poverina, sì. La sua fortuna è stata quella, però. Esatto. È stata la sua fortuna, adesso farà una bella pubblicità. Come di pubblicità? Prodotti per pulire la casa. Ma veramente? Prodotti anti-Covid. Non è vero? Sì. Ma veramente? Sì. Come? Giuro. Sì. Ma che credibilità può avere, però, scusami, di prodotti anti-Covid? Però questo è geniale, devo dire la verità, è geniale questa cosa qua. Questo è geniale, vedi cosa serve la gente. Questo è geniale, pubblicità per prodotti anti-Covid da parte di non c'è Covid. E allora io, che sono ebreo, voglio fare la pubblicità a un prodotto che vende salami o maiali a questo allora, punto, non ho capito. Che sei ebreo, visto che non li mangio. Hanno giù dove hanno portato tutti gli ebrei, perché visto che sei anche grasso e pieno di soldi, ti spenderanno vivo. Grasso dove sono? Grasso, che sono magrissimo. Cosa scusami, dici? Lele, ma tu sei. Ma rimani sempre mussoliniano o sbaglio? Io pure, rimango mussoliniano pure, convinto pure, perché pure, chi nasce non di un colore pure, non può morire dell'altra. Pure. Mussoliniano tutti è, una difetti, religione. È una religione. Mussoliniano ragazzi. È una religione. Non ma è io dico possiamo dire partito. Bisessuale? No, cos'è? Bisessuale. No, tutti e due siete bisessuali lì dentro, perché so che andate a travestiti, dunque ma io, in alcun modo ho delle mie amiche che mi hanno detto che siete andati beh, a travestiti te. Con loro beh, il primo omosessuale pagate. Fascista della storia sei tu, il primo omosessuale mussoliniano della storia. Scusa, ma Mussolini avrebbe risolto sta cosa del Covid velocemente secondo te? Subito, in un mese avrebbe risolto, cioè sua eccellenza avrebbe risolto tutto secondo te? E in che modo, scusami, avrebbe risolto? Lui già nel 1932 sì. aveva scritto sui suoi diari sì. che saremmo stati presi di sprovvista da sì. un virus stranissimo che cambierà sì. il mondo. Cioè un veggente praticamente. Era mamma un veggente. Era un veggente. Cioè, no, era un coglione. Diciamo, cioè lui ragazzi, parlate bene. Chi è che ha detto coglione? Parenzo. Io. Dunque al posto di Conte avrebbe fatto famiglia. Vorrebbe proprio un altro Mussolini. Un Mussolini al posto di Conte per risolvere tutto. Però bisogna c'era leggere la storia. Ma c'era ragazzi. La dittatura. Lele, c'era la dittatura. Cultura. Quelli come te finivano al gabbio se c'era Mussolini. Ma meglio. Sai quanto ti divertivi? C'ero già stato il gabbio. mio io. Ecco, appunto, esatto, esatto. Ecco, mantiamo anche un po' Parenzo al gabbio. Ma, sì, Luciani, ma perché mai? Perché Luciano mi è simpatico. Chiedo, mandiamo un po' sì. Parenzo al gabbio, dai, andiamo un po' Parenzo sì. al gabbio, chi se ne frega, dai, su. Ma perché dovrei andare al gabbio? Comunque, scusate. La notizia vera è questa, il genio di Lele More, che poi alla fine un po' di genio rimane nonostante gli anni, cioè esatto. Ha portato la signora, non c'è Covid, a fare uno spot. Uno spot per i prodotti anti-Covid. Pure Lele More ha bisogno di un po' di grano, dai, su. Non è che devi guadagniamo un po' di grano. Non è che hai bisogno di vendere qualche busto di Mussolini, no? Per quelli li tengo come delle reliquie. Lo sai che te li potrei comprare uno io? Quanto costa più caro? Non li vendo neanche se mi levi un'unghia. Al gabinetto, al gabinetto puoi metterli. Ma perché al gabinetto? Che male fa? Al gabinetto si mette la carta igienica, caro signor. Esatto, e quindi per analogia il busto di Mussolini. Qualche brutta parolaccia. Per analogia anche il busto di un criminale. Ciao Lele, ti abbraccio. Ciao ragazzi, ciao. La Zanzara. Gente che si fa pisciare addosso, cacare addosso, squirtare addosso, gente che si fa prendere a calci sulle palle, gente che gli piace essere insultata. Va bene, non ci ho capito proprio un cazzo della vita. Questi alzano migliaia e migliaia d'euro, invece io mi devo alzare per 500 euro tutto il giorno a lavorare. Va bene, non ci ho capito proprio un cazzo nella vita, pare. Non ci abbiamo capito proprio un cazzo. Sai che c'è un'asta, pensa quanto gli ha detto bene a Trump, che già peraltro è ricco, no? 100 milioni di offerta per raccontare 4 anni di presidenza. L'asta parte da 100 milioni, no, caro Parenzo. 100 milioni, il signor Trump. Signor Trump. Piove sul bagnato. Poi il tuo amico Fauci, che hai tanto esaltato, sì. Ha detto che il lockdown duro produce effetti negativi, che non è il caso di attuarlo. Da noi nessuno lo vuole mettere, no, non c'è nessun lockdown duro. Senti, non da noi. Fare il patetico. Da noi non c'è nessun il lockdown tuo amico duro, Fauci, infatti. Tuo amico Fauci ha detto che i lockdown sono dannosi. No, il lockdown sono duro, quello che abbiamo qui non è un lockdown totale, infatti la gente va a scuola, per fortuna, le fabbriche rimangono aperte. E poi è molto cauto sul vaccino, molto cauto. Quello cauto. Per forza, tutti sono cauti. Francesco da Forlì. Conte, che vai, si è sbilanciato in modo Forlì. Sbagliato. Vai, Francesco da Forlì. Pronto. Dimmi Francesco, dimmi. Ecco, ciao Giuseppe. Allora, io volevo parlarti un po' del fatto che, secondo me, nel 2020... Aspetta. Il problema... Dimmi. Ok, bella. E allora, secondo me le donne hanno più potere di quanto non gli avessimo già potuto dare. Ti spiego. Cioè, Chi è? Ti ho chiamato. Chi sei? Lota, Latrina, Lota. Latrina, Lota. Questo mi chiama continuamente. Pensate che poveraccio. Il numero anonimo mi chiama continuamente da Napoli per insultarmi. Latrina, Lota. Ma non hai un cazzo da fare. Non hai niente da... Ha fatto bene Gasparri. Non hai niente da fare dalla mattina alla sera. Latrina, Lota. Nulla facente. Gasparri pedofilo. Ma che dici? Ma questo è pazzo totale. Questo è un cretino, calunniatore totale. Questo è un calunniatore totale. No, l'ho messo in diretta, a parte che ha detto un'infamia naturalmente. Sono un cretino. Questo coglione non ha nulla da fare e cazzate, mi chiama continuamente. Vabbè, in diretta. Speriamo che venga denunziato, certamente. Sì, appunto. Dove siamo qua? Con chi eravamo? Francesco, dimmi. No, quindi ero rimasto che alla fine ci sono, per le donne ci sono talmente tante leggi a loro tutela, no? Che oramai gli uomini stessi perdono i loro diritti. Tu dici leggi a loro tutela, ma che dice questo? Che bestialità dice questo qui? Legge a tutela delle donne, ma per forza, ma che cosa vuol dire? No, ma lei cosa dice? Ma è matto lei? No, allora, io sono rimasto un po' indietro con le puntate comunque. Ma lei è rimasto indietro in generale, è rimasto al 1600, è rimasto lei in generale, non con le puntate. Vabbè, allora? Allora, il punto è che cioè te dici di andare a conoscere in giro, chiamare tutte le ragazze eccetera, e poi fai complimenti invece a chi ci fa donare online le live erotiche per godere. Ma che cazzo fai? Ma chi, a parte fine... no, Francesco, stiamo capendo, io non dico a nessuno di fare nulla, cioè non dico a nessuno di fare niente. Ognuno fa quello che vuole, ognuno fa quello che vuole, ognuno fa quello che vuole. Le donne chi dice certe cose piuttosto che altre. Ma che non è vero, ognuno fa quello che vuole. Se uno ma cosa vuol dire? Cioè, cos'è che promuoverei io il sesso online? Ma certo, se uno vuole fare sesso online, vuole fare soldi online, che problema c'è? No, boh, secondo me non ci sta, cioè alla fine ci perde qualsiasi. Ma chi se ne frega se ci vuoi, ma se ci vuoi andare ci vai, se no non ci vai, punto e basta, molto semplice. Infatti, e allora che vuoi? Se c'è gente che paga per avere per vedere una donna online che si masturba o fa queste cose qui, va bene, ma chi se ne frega? Io non pagherei mai, per esempio. No, esatto, infatti. Ho capito, ma queste fanno business, fanno dei soldi e fanno benissimo se c'è qualcuno che paga, è sempre una questione di do-ut des. Ho capito. Ciao Francesco, ciao. Allora, per chiarire una volta per tutte la testimonianza che all'inizio della trasmissione un po' ha scosso David Parenzo, testimonianza di una transessuale, che sostiene, con la voce... La voce modificata, naturalmente, sostiene di aver frequentato per un periodo Parenzo. Parenzo ha detto anche che chi va a transessuali è un disturbato, un malato, una persona, uno svalvolato, eccetera. Vediamo eccetera. la prossima calunnia. Una follia assoluta. Ti ho convocato una sessuologa che ti spiegherà il profilo delle persone che vanno a trans. Ecco, così ti tranquillizzi. Ma così io non ti tranquillizzo, caso e... continuo a giudicare. Allora, diciamo, dottoressa magari... Spina, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Ben ritrovata. Allora, io voglio capire una cosa da lei, che sicuramente tra i suoi pazienti, tra i suoi clienti, chiamiamoli così. Pazienti, già hai fatto capire pazienti. No, pazienti, tra persone che vanno l'hai a consultarsi. Brava, l'hai fa detto. La psicologa, già hai fatto che, esatto, ma fa la psicologa. Ma se fosse una cosa normale, uno, hai già inquadrato il tema, per me. Non ho altre domande. Ma sono pazienti perché vanno da una psicologa, che ecco, c'entra? Appunto, se uno va, evidentemente, io che ho una relazione normale, stabile, non vado dalla psicologa per parlare di sesso, ad esempio, però va benissimo, evviva. Lasci perdere. Le persone che vanno, le sarà capitato di incontrare persone che vanno a trans, no? Certo, ma non solo miei pazienti, insomma, anche persone che conosco a volte mi raccontano le loro esperienze. Ecco, e che tipo di profilo possiamo fare? Cioè, perché Parenzo è preoccupato, dice: no, io sono preoccupato per niente, ho espresso un mio giudizio. Io sostengo magari da tempo, sostengo da tempo che non trattasi di persone gay, cioè non io preciso, dottoressa, che considero anche chi va a prostituta è un miserabile. Io considero anche gli uomini che pagano le donne per avere un rapporto, li considero dei miserabili, quindi preciso anche questo. Vabbè, comunque, a parte questo, chi va a trans, cara dottoressa Spina, che profilo ha secondo lei? Beh, raramente è un omosessuale, nella maggior parte dei casi sono persone eterosessuali che tra l'altro hanno un livello socioculturale medio-alto. Abbiamo detto, abbiamo fatto il profilo di Parenzo, esattamente, ambiente socioculturale medio-alto e persone che eterosessuali. Gli omosessuali che vanno a trans è una diceria, poi ovvio che in una percentuale minima ci saranno, sì, sicuramente. Ma è una percentuale molto bassa. Ecco, ma perché tutte le transessuali che noi intervistiamo, dottoressa Spina, sostengono che gli uomini vanno lì per farsi sodomizzare? Cioè, ci sono molti passivi in giro. Cosa spinge un uomo, in questo caso sembra anche il dottor Parenzo qui presente, ad essere, come dire, a subire un trattamento. Cosa spinge un uomo? La cazzata del venerdì. Avanti. Beh, diciamo che c'è ancora fra gli uomini un tabù molto forte riguardante la penetrazione anale. Sì, quindi il fatto di riuscire ad andare con una trans, quindi con una donna, che quindi una persona che a tutti gli effetti è donna, ma è ancora dotata di un apparato sessuale maschile, permette di vivere la penetrazione anale come se fosse, mamma, diciamo così, in un certo senso meno pericolosa, tra virgolette. Questo è molto interessante. Quindi di accettarla più facilmente. Questo è molto interessante. Cioè tu, lei mi sta dicendo una cosa, dottoressa Spina, che... Ma è normale, essendoci un tabù, è normale? Essendoci un tabù, essendoci un tabù, sì, qui non, esatto, c'è... Essendoci un tabù, l'uomo e la penetrazione anale, no? L'uomo ha un tabù nel sì, farsi nel penetrare. Nel ricevere la penetrazione anale. Nel concepire di essere penetrato, diciamo, nell'immaginare questo. Esatto, andando esatto. Con una trans, andando con un trans, sembra quasi che non venga, se no sembra quasi che la faccia meno sporca, diciamo così. Esatto, esatto, perché comunque a tutti gli effetti noi parliamo di una donna, tra l'altro di una donna che molto spesso ha delle caratteristiche iperfemminili, sì, donna, un seno sembra, molto seno molto prosperoso, eccetera, esatto, seno rifatto, ecco, seno anche dei glutei a volte particolarmente, sì, ormoni, eccetera, che ti fanno anche apparire, ecco, quella persona come una donna che ti incula. Questo adesso io lo dico in modo molto crudo e molto crudo, ma è così, insomma, una donna che ti penetra. E l'uomo forse è più sollevato, volendo fare esatto, queste, è più sollevato, esatto, da una cosa di questo esatto, tipo. Esatto, esatto. Cioè si parte da un desiderio, come... si parte da un desiderio. Questo si parte desiderio... da una curiosità, da una fantasia, da un desiderio. Curiosità che adesso, anche negli uomini non la chiamerei curiosità, forte. Ma insomma. Ma in realtà anche negli uomini comunque la penetrazione anale è una curiosità. Però che se è poi più vengono da lei evidentemente pensiamo. Hanno un problema, però scusi, perché altrimenti se uno non avesse un, non lo considerasse, come dire, un'anomalia, non ne parlerebbe con uno ma psicologo, no? Non vengono per questo motivo, no, da me capito, magari però, vengono per altri tipi di problematiche. Sì, ecco, appunto, però voglio dire, se uno ha una ecco, vita però, sessuale direi normale, noiosa, no, non è che vada allo psicologo. No, le due cose non vanno di pari passo. Anche perché dobbiamo tener conto di una cosa, per esempio oggi il pegging è una pratica che va molto di moda. Il pegging. Il pegging. Esatto. Cos'è? Ed è la penetrazione ricevuta da un uomo da parte della propria compagna per mezzo per di carità. Una cintura fallica. Ma con la cintura carità. Fallica, molto infatti, di moda. Molto di moda, non mi interessa. Quindi in questo caso non è una trans. È la propria compagna che tramite una cintura dotata di un vabbè, fatto, cosa vi devo dire? Io è viva, è fatta, cosa volete che vi dica? Vabbè, se va di moda, va di moda. Va di moda, ma dire? Comprati una cintura fallica. Ma se non cintura. Me ne frega nulla, ma io voglio dire, io amo essere considerato anormale in questo, guardi. Allora, ma io va non di, vado moda, di moda il pegging, va di moda ma il pegging. Ma nulla, fatelo voi. Ma cara dottoressa, se le farò faccia lei se le piace, se va di moda, cosa devo dirvi io? A me non gusta in alcun modo, però perché. Cioè, a te non ti piacerebbe avere una donna con una cintura? No. Io davvero vi chiedo scusa, ma no. Senta, io ho un'ultima curiosità da chiedere alla dottoressa Spina, perché al di là qui non stiamo parlando di parafilie in questo caso. Non sono parafilie, sono solamente così gusti sessuali. Però a me è capitato più volte invece di avere una fissazione per le vecchie. Cioè per le persone veramente vecchie, cioè qualche volta ho avuto poi un'attrazione, dice, per una vecchia, dice, ti verrà anche per avere, i morti, anche la microfilia ti verrà tra un po'. Voglio avere un rapporto sessuale con una persona molto più grande di me, ma di gran lunga, cioè dire 70, 75, eccetera. Ecco, che cos'è? Questa è una parafilia. Sì, in questo caso è una parafilia vera e propria, tant'è che parliamo di gerontofilia. Di ma è comune, sessuale. È una malattia, possiamo dire che è una malattia, però in qualche modo? Non è una malattia. Neanche questa è una follia, evviva! Ma guardi, in sessuologia in realtà il confine tra patologia e non patologia in realtà è un confine molto molto labile. Ho capito, ma un confine possiamo metterlo uno che vuole capito, andare ma cosa di 70 anni. Cosa significa è che è mezzo matto o no? Possiamo dirla così? Non necessariamente. Diciamo che dipende da tutta una serie di caratteristiche. Intanto se si tratta di un gusto, di una preferenza sessuale che prevede un'esclusività, esatto. Quindi io vado solo ed esclusivamente. E quando con si le tratta in quel caso, anziane, quando si tratta di una che uno si eccita solamente con delle persone molto più anziane. Nel porno, per esempio, un mio amico mi ha raccontato, è presente nel mio libro questa testimonianza, libro Nudi, vi ricordo, che vanno molto tra i giovani, va molto di moda la vecchia, come proprio come genere, vecchia, le vecchie. Sì, cioè. Allora, a volte può essere solo un discorso di curiosità, quindi si va per provare, per capire che sensazioni si provano e quindi è un concetto legato alla trasgressione. Comunque, posso chiederti, sono quelle volte in cui mi è capitato, ho qualcosa da... No, mi devo... Per questo e per tutto, no, il resto. Nulla da curare. Non c'è nulla da curare. Perché è incurabile. Nessuna patologia. Perché è incurabile. Perché nessuna patologia. Altro. Guarda, perché che qualche volta il pelo bianco della figa, caro David, è un concetto da approfondire. Il pelo bianco della figa ha un suo fascino. Un suo fascino. Un suo fascino davvero forte, il pelo bianco. Sarebbe da provare. Hai mai provato il pelo bianco? Amici miei. Ciao, ciao Maria Rosaria. Ciao, ciao, ciao, ciao Rosa Maria. Ciao, ciao, ciao. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ogni tanto nei suoi deliri mi chiamo Urbano e mi chiede di urlare che non è un bravo giornalista.